Le strade della comunicazione. Il mondo dell'intrattenimento fatto di cinema, TV e dei cosiddetti new media segna da tempo una netta crescita. Un mercato che cerca nuovi professionisti e offre opportunità di lavoro in un ambito creativo, attraente e dove la comunicazione è un asse portante. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Esperto di comunicazione multimediale e TV interattiva. I new media hanno sempre più bisogno di nuovi professionisti. Tra questi c'è l'esperto di comunicazione multimediale e TV interattiva. È una figura professionale altamente specializzata che si occupa della creazione di prodotti multimediali e dei contenuti per i nuovi servizi della TV interattiva, quali teletext, video on demand e pay per view. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in televisione, cinema e new media dell'Università Yulm. www.yulm.it.